Manager del stage che è King 19 on top baby sto in deal. Parli ma non muovi boo sei un meme. Faccio style, J-style che è un film. Ehi, Genova this sai che faccio quick. Big big facts baby sto in trip. 19 anni già faccio state. Se mi vedi in giro boo già sei quit. Genova top tutto full black. Zero po' baby boo tutto check. City mi guarda sanno che spingo. Tu fai babbo, io faccio bingo. Ai, ok scuri, sguardo da boss. Giro in città tutto on top. Gente che parla, boh, non la sento. Se non porti cash, boh, resta fermo. Rispetto la fam, sempre con me. Che te dice l'auto, baby, se la B. Non faccio la voice, solo faccio big. Ma non è genuino, già sopra il beat. Ok, no cap, no stress. Se mi vedi facts, già che faccio cash. 19 su stack, sto già in test. Parli troppo boh, già sei un ex. Ehi, Genova dir, sa che faccio quick. Big big facts, baby, sto in trip. 19 anni, già faccio hit. Se mi vedi in giro, boh, già sei quit. Genova top, tutto full black. Zero problemi, boh, tutto check. City mi guarda, sanno che spingo. Tu fai babbo, io faccio bingo. Mischio, sto in corsa. Big big moves, tutto sopra. Tu mi vuoi flex, boss, già nel suo posto. Io faccio la mia strada, mica sono lost. Mamma dice vola alto, già lo so. Che non porta rispetto, rest out. G-Cream, my chip, sono solo top. Se mi vedi in giro, sai già che è hot. Ok, no cap, no stress. Se mi vedi flex, sai che faccio cash. 19 su StatTech, sto già in next. Parli troppo boh, già sei un ex. Ehi, Genova dissa che faccio quick. Big big facts, baby, sto in trip. 19 anni già faccio hit. Se mi vedi in giro, boh, già sei quick. Genova top, tutto full black. Zero problemi, boh, tutto check. City mi guarda, sanno che spingo. Tu fai babà, io faccio bingo. Sopra.